Olimpia. Miti e verità dello sport. Di Dario Ricci. Tornerà a risuonare tra poco, per l'esattezza sabato prossimo, il 28 maggio, l'inno della Champions a San Siro. Sarà proprio la Scala del Calcio, infatti, a ospitare la finale dell'edizione 2015-16, il derby madrileno tra Real e Atletico. Milano torna così capitale del calcio europeo, per paradosso in uno degli anni più difficili per le squadre milanesi. E non è certo la prima volta che San Siro ospita l'ultimo atto della massima competizione continentale. È proprio questo il sentiero della memoria che andiamo oggi a esplorare qui ad Olimpia, con una guida d'eccezione. Sandro Mazzola, bandiera della grande Inter e della Nazionale, ben ritornato a Olimpia, la città dello sport. Buonasera. Allora, signor Mazzola, torniamo a quel 27 maggio 1965. La sua Inter, detentrice della Coppa Campioni e vincitrice anche dell'Intercontinentale, trova in finale, e proprio a San Siro, il Benfica del grande Eusebio. Emozione particolare, immagino, giocare una finale in casa. Beh sì, è stata comunque un'esperienza difficile, perché una tensione, perché era obbligatorio vincere, non potevamo non vincere, quindi fu più difficile. Visto, probabilmente fuori casa, anche se loro erano una squadra molto forte, un centrocampo molto valido, però forse fuori casa avremmo fatto meno fatica. Vero pure che a complicare le cose a entrambe le formazioni ci si mise un acquazzone e un pantano che quasi resero impossibile giocare a calcio. Ma era quasi impraticabile. Difatti mi ricordo che quando entrammo in campo a vederlo, ci guardiamo e diciamo: qui ora su terra non si può giocare, sempre scavetto per dare la palla, se no non arriva mai. Bisogna anche dire che poi quel pantano in qualche modo va aiutò, perché il portiere del Benfica fece un gravissimo errore sul tiro di Jair. Sì, sì, fece una papera incredibile, ma è il fatto che il Cino era un brasiliano e tirava, se non tirava mai pulito, tirava sempre sporco e quindi ingannava i portieri, ma l'importanza fu il pubblico. Avevano tutti delle lumine in mano che a fine partita non riuscivamo a uscire dal campo. Fu bellissimo. Entrammo e quando vedemmo tutto quel pubblico, tutti che cantavano, che applaudivano, ci venne un po' il fiatone, a dire la verità. E difatti io credo che per un po' non giocammo bene, proprio per la tensione che avevamo dentro, perché non potevamo deludere il nostro pubblico. Allora andiamo con la voce di Bruno Pizzula a rivivere il momento decisivo di quella sfida, il 43esimo minuto del primo tempo. Elegante disimpegno e poi battuta lunga a favore di Mazzola. Fa Mazzola, palla per poi Peirò, anzi corso ancora Mazzola, Jair, va al tiro, Jair sfugge il pallone a Costa Pereira e l'Inter è in vantaggio. 43esimo del primo tempo, improvvisamente si sblocca la situazione al termine di un'azione che non sembrava caratterizzata da un tasso di particolare pericolosità. Il pallone è arrivato a Jair, che da destra ha lasciato partire un rasoterra teso, ma sul quale era ottimamente piazzato il portiere Costa Pereira, che ha intercettato ma non ha trattenuto il pallone. Eccolo il gol di Jair che assegna la Coppa all'Inter. Sentiamo come ricordava quella sera il grande Giacinto Facchetti, capitano leggendario dei nerazzurri timonati dal mago Elenio Herrera. Tutti si aspettavano che giocando in casa dovessimo vincere e forse questo aveva un po' bloccato la nostra squadra, che in quella partita non giocò come aveva giocato le partite in precedenza. Secondo me era una partita che non si doveva giocare quella sera, perché c'era molta acqua sul terreno, e infatti il gol della vittoria lo segnò Jair da Costa grazie anche al terreno che era molto bagnato, e il portiere prese il pallone ma gli passò in mezzo le gambe proprio a causa di questo terreno che era molto bagnato. un altro protagonista di quella gara, Tarcisio Burnic. Effettivamente è stata una partita abbastanza difficile per i problemi del terreno, ecco, più che dell'avversario, perché abbiamo un po' dominato la partita, però era difficile gestire con la palla, perciò anche una squadra che si difendeva è agevolata dal fatto che non si può giocare in velocità, perciò abbiamo fatto fatica, però la partita insomma l'abbiamo dominata. Incubo della difesa nerazzurra è il grande Eusebio, dicevamo, straordinario bomber di quel Benfica e che già aveva creato qualche problemino a Burnic, che pure era un difensore implacabile. Il mago, mi ricordo, quando una partita amichevole, credo, sempre col Benfica, c'era l'ala sinistra che la marcavo io, insomma, in un calcio d'angolo a favore nostro, io dico a Bruno Volchi: Bruno, guarda, marca te Simoes, che è laggiù in cima davanti a fare la barriera, e io Marco Eusebio. A fine partita, cioè finita l'azione, Simoes ha fatto gol in contropiede. Alla fine il mago mi fa: scusa Burnic, ma lei dov'era? Guardi mister, ho fatto questo cambio perché ho detto a Volchi di marcare Simoes, io marcavo Eusebio. No, lei deve andare anche a gabinetto col suo avversario. Poi dopo mi ha messo fuori squadra, perché c'era la Coppa Italia ad Alessandria e non ho giocato. Sandro Mazzola, davvero divertente l'aneddoto relativo a Eusebio che ci ha ricordato Tarcisio Burnic. Ma la Pantera Nera faceva davvero così tanta paura? No, guarda, io di Eusebio mi ricordo quando ho giocato il resto d'Europa contro, mi sembra, Germania, e abbiamo giocato assieme. Era una cosa fantastica. Guardava a destra, ti metteva la palla a sinistra. Faceva sempre delle cose che i difensori restavano impressionati. Infatti noi su di lui quella partita ci fu la marcatura uomo più forte di tutti i tempi, perché se quello riusciva a inventare la giocata erano cavoli acidi. Senta, le chiedo un altro ricordo, un'altra immagine che per lei simboleggia un po' quella notte magica. Ma il ricordo soprattutto è lo stadio, tutti questi lumini non ne avevamo mai visti, non era mai successo, e questo ci fece capire che dovevamo approfittarne. Beh, direi che ci siete riusciti in pieno in quella magica notte di 51 anni fa a San Siro. Resti con noi ora, signor Mazzola. Ancora un attimo di pausa e torniamo qui a Olimpia per rivivere insieme le grandi finali di Champions vissute alla Scala del Calcio. Olimpia, miti e verità dello sport. San Siro, la Scala del Calcio Mondiale, teatro della finale di Champions League. Non accadrà solo sabato prossimo col derby tra Real Madrid e Atletico Madrid. È già accaduto in passato. Con Sandro Mazzola, che è ancora in collegamento con noi, e altri protagonisti, abbiamo rivissuto il successo dell'Inter sul Benfica il 27 maggio 1965. Andiamo ancora a San Siro, allora. Questa volta è la notte del 6 maggio 1970 e a disputarsi la Coppa dei Campioni sono gli olandesi del Feyenoord di Rotterdam e gli scozzesi del Celtic Glasgow. Feyenoord heeft voetbalgeschiedenis geschreven in het San Siro stadion in Milan, waar de Rotterdammers met de Schotse kampioensclub Celtic uit Glasgow streden om de Europa Cup. È il 29esimo del primo tempo quando l'arbitro italiano Concetto Lobello assegna una punizione dal limite agli scozzesi. Tommy Gamble approfitta di un tocco a sorpresa di un compagno per scaricare un destro terrificante alle spalle del portiere Graffland, ingannato anche dallo stesso Lobello che ne intralcia la visuale. Back to Gamble, scored! And the old free card trick, Tommy Gamble, and there it is, it's passed back to him. Watch Gamble come and really hit this one. Look how it goes through the wall, tremendous speed, almost touches the referee, and I wonder whether the referee unsighted the goalkeeper. and it's Tommy Gebhel who got the goal in the first goal in the 67 European Cup final, has now done it again for Celtic. Passano però appena due minuti e il Feyenoord trova il pari con un colpo di testa del suo capitano, Rinus Israel. Hassel, but Hanegem. It's a goal! Yes, it is! It's in the net, it's the equaliser from Israel. And Israel, number three, the skipper. And watch this slackness on the part of the Celtic defence. There's a ball played forward to Israel, is a man leaping up now, and he seems to be... No chance of scoring, but there's McNeil caught out of position. Israel going up for it now, and Williams has come to cover the near post, thinks it's going wide, and there it is, hitting the post into the net, and it's one each, Israel. Si va ai supplementari e qui gli olandesi, allenati dal grande Ernst Happel, trovano il gol vittoria. A firmarlo lo svedese Kindvall, con un bel pallonetto in un'azione comunque segnata da un fallo da rigore a favore del Feyenoord, su cui Lo Bello però concede il vantaggio. Free kick to Feyenoord. Israel with the free kick. And a penalty! It's a penalty! And it's a goal! He didn't give the penalty, he gets the goal! Kindvall has done it! Over Kindvall! And the stadium erupts. Now watch this as up goes McNeil. It's a certain penalty, but the referee very cleverly waved play on. Williams certainly continued to play, so did Kindvall, and that's the goal that looks as if it will win the European Cup for Feyenoord. And let Celtic do something really quickly, because there are only 4 minutes left. Successo meritato quello del Feyenoord, che lungo il cammino aveva eliminato il Milan, detentore del trofeo, come ricorda Pierino Prati, leggendario attaccante dei rossoneri. È stata una sorpresa, già la sorpresa era l'Ajax arrivare in finale, è chiaro che l'anno dopo si pensava che magari era successo per caso, si può dire, che una squadra olandese in quel momento riuscisse ad arrivare fino alla fine. E noi fummo eliminati proprio da questa squadra che poi arrivò a vincerlo. Dunque è cominciato il calcio olandese sicuramente, perché poi l'anno dopo è ritornato l'Ajax per 3 anni di fila. Dunque sono state le due squadre che hanno fatto vedere che l'Olanda era su tutti i campi, perché era diventata una nazione dove sfornava dei grandi giocatori e dove riuscivano a arrivare a traguardi molto importanti come la Champions. Israel, Jansen, il grande Van Aanegem a centrocampo. Con le sue stelle la squadra di Rotterdam anticipò, ricorda Prati, la grande epopea dell'Ajax. Aveva anche degli ottimi giocatori, cioè nell'Ajax ne sono usciti di più. Ecco, il Feyenoord fu veramente la sorpresa della sorpresa, perché l'Ajax era stata già una sorpresa e poi si è visto che con quella squadra, quel gruppo di giocatori, quel modo di fare calcio, per parecchi anni credo che abbiano cercato di copiarli un po' tutti, solo che loro avevano una squadra che anche a livello internazionale teneva bene campo con tutte le nazionali più forti in assoluto. Dunque c'è stato un periodo che sicuramente quello era il gioco olandese che avevano creato soprattutto con l'Ajax. È chiaro che piano piano hanno cercato tutti di copiare quello che è stato quell'annata dell'Olanda, cioè cambiando proprio il metodo e i sistemi di gioco. Per l'ex bomber rossonero poi un altro rimpianto, quello di non aver potuto sollevare al cielo la coppa nello stadio di casa. Quello è un grosso dispiacere, non sarebbe stato male fare una finale a San Siro, sarebbe stato il colmo dei colmi. Ecco, niente, San Siro è uno stadio che quando sento parlare che forse si costruisce uno stadio nuovo, riesco a capire che ci vuole uno stadio che altri servizi, però nello stesso tempo mi resto amareggiato, perché San Siro solo andare e girargli attorno è un qualcosa che ti colpisce. Ultima tappa del viaggio della memoria, ancora a San Siro, ancora finale di Champions League. È il 23 maggio del 2001 e a disputarsi la Champions ci sono il Bayern Monaco e il Valencia di Hector Cooper, e che schiera come terzino sinistro l'italiano Amedeo Carboni. Gli iberici passano in vantaggio dopo 3 minuti con un rigore di Mendieta. Sempre dal dischetto al 50esimo arriva il pari di Effenberg, e sempre ai rigori poi il successo dei bavaresi con lo straordinario Oliver Kahn che neutralizza le conclusioni di Zahovic, Carboni e Pellegrino. Pellegrino gegen Kahn. Kahn di Bayern! Di Bayern! Sandro Mazzola, ecco, abbiamo rivissuto insieme le grandi finali di Coppa Campioni e Champions League ospitate a San Siro. Sabato prossimo, su quel prato, si affronteranno Real e Atletico Madrid. Sarà una partita bellissima perché sono due grandi squadre. Io tifo Atletico perché Simeone è stato un mio giocatore, lo conosco, una persona eccezionale. Quindi io ricordo che dalle prime 2 o 3 partite l'avevo preso io ero direttore, e non era andato tanto bene, avevo un mucchio di critiche. Prima della partita io ero nello spogliatoio e lo vidi tutto teso, andai a dirgli: Diego, ma non c'è problema, direttore, lo so, le faccio vedere a tutti chi è Diego Simeone. Fece un gol e una partita fantastica, e da lì diventò il Beniamino di San Siro. Che partita invece si aspetta, ecco, in questo 28 maggio? Ma io credo che l'Atletico farà una partita a andare a colpire gli avversari, però nella propria metà campo tutti compatti, tutti pronti a intervenire e a ripartire. Il Real tenterà di inventare per quei due là davanti, che sono due fenomeni, però sarà dura inventare per loro, perché l'Atletico farà in modo che non riceveranno tanti palloni. Io tifo Atletico, non so se si è capito. Sì, sì, si è capito bene. E che Milano si aspetta? Perché questa finale, per paradosso, arriva in uno dei momenti più bui del calcio milanese. E ecco, come si aspetta che verrà accolta questa Champions? In fondo Milano è sullo sfondo, ma è anche chiamato a recitare un ruolo da protagonista come città. I milanesi hanno voglia di calcio, di un certo tipo di calcio. Quindi secondo me andranno per applaudire una grande partita, e sperando che poi qualcuna delle due, ognuno dalla sua parte, possa un domani arrivare a una finale del genere. Sandro Mazzola, grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie, buonasera. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.